GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'emergenza siccità al centro della conferenza delle regioni riunitasi in assemblea con il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, chiesta una regia nazionale commissariale all'attivazione di tutte le misure necessarie a sostegno del comparto agricolo. Per il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga è necessario più che mai fare sistema in un momento così critico. Per affrontare al meglio i disagi dovuti all'emergenza idrica arrivano i consigli di un esperto di agricoltura tropicale dell'ERSA, uno dei pochi specialisti a livello nazionale. 9.000 giovani maturandi stanno per affrontare tra poco la seconda prova scritta ancora in presenza e diversa a seconda dell'indirizzo scelto. Ieri il tema di italiano fra verga, razzismo, Covid e social ha incontrato il favore degli studenti. Consegnata in Consiglio regionale la petizione sulla sanità con allegate 15.000 firme che chiede il ripristino di servizi e l'abbattimento delle liste di attesa. Non ha creato particolari scossoni politici tra i 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia la nascita del nuovo partito decisa da Di Maio. Il ministro Patuanelli, i parlamentari e i consiglieri regionali restano nel movimento e confermano l'appoggio al governo Draghi. La Triestina trova in estremis un nuovo proprietario, riesce a iscriversi sul filo di lana al prossimo campionato di Serie C. Si tratta dell'Atlas Consulting, società milanese di marketing e comunicazione. Nel basket la Gesteco Cividale batte Vigevano per 82-63 in gara 5 della finale playoff e conquista la promozione in Serie A2. L'anno prossimo il derby tutto friulano con l'Apo Udine. Filippo Ganna imprendibile ai campionati italiani a cronometro su strada a San Giovanni al Natisone. Sesto posto per il friulano Alessandro De Marchi che ha chiuso a 2 minuti dal vincitore. Nell'anno del ritorno dei grandi concerti in regione arriva a Lignano la band più acclamata del momento, i Maneskin, attesi allo stadio Tegil oltre 27.000 fan. Le 7:20 minuti, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bears ed Eva Ciuc che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 23 giugno. Cominciamo con i dati del tempo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste ci sono 22,5 gradi, il mare è calmo con temperatura di 25,5 gradi, a Pordenone 20,5 gradi, a Udine 20 gradi, a Gorizia 19,5 gradi, a Tolmezzo 18,5 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 15 gradi, a Sappada 12,5 gradi, a Piancavallo 12 gradi, sul monte Zoncolan 14 gradi, su Lussari 13,5 gradi. A Lignano è grado 23,5 gradi, la temperatura del mare qui è di 24 gradi. Le previsioni, oggi il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, con possibili locali rovesci e qualche temporale, specie di pomeriggio, farà caldo, specie di pomeriggio e sulle zone interne. La conferenza delle regioni e delle province autonome si è riunita ieri in assemblea con il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio anche per affrontare l'emergenza siccità. Nell'occasione è stata sottolineata la necessità di una regia nazionale commissariale per fare in modo che vengano attivate immediatamente tutte le misure a sostegno dell'agricoltura. Le regioni hanno ribadito al governo, che dovrebbe occuparsi proprio oggi della questione nel Consiglio dei Ministri, la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità e di mettere a disposizione risorse anche del PNRR per creare nuovi invasi. Ma sentiamo le dichiarazioni rilasciate alla fine della conferenza dallo stesso capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dal presidente della conferenza delle regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro a quelle che è la richiesta del territorio, che ovviamente hanno chiesto in occasioni stato d'emergenza, però ricordiamoci che lo stato d'emergenza poi serve a fare delle cose, quindi noi prendiamo atto che c'è una difficoltà in atto, vogliamo ragionare su che cosa si può fare con la dichiarazione di stato d'emergenza e quindi si sta lavorando per definire, come dire, le attività che seguono allo stato d'emergenza. Cioè, lo stato d'emergenza non è un'idea, è poi una serie di azioni che vanno fatte, quindi insieme alla dichiarazione devono essere verificate le azioni, quindi ci stiamo lavorando. Noi stiamo confrontando su questo proprio con la protezione civile. Io penso che su questo, insieme all'ingegner Curcio, arriveremo a una soluzione nella quale si individuano in modo puntuale i criteri per la dichiarazione dello stato d'emergenza e soprattutto gli interventi che si possono fare con la dichiarazione dello stato d'emergenza. Per questo è fondamentale, su questo c'è totale sintonia tra la conferenza delle regioni e protezione civile. Intanto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza, già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle province di Udine, Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, e quanto si legge nel comunicato finale del CDM. E con la siccità che continua a non dare tregua ed è la prima responsabile dell'attuale emergenza idrica, anche chi possiede un piccolo orto o giardino può fare la sua parte per evitare sprechi inutili d'acqua, salvaguardando anche i suoi fiori e le piante. E sentiamo allora alcuni consigli di un esperto nel prossimo servizio. Adesso l'Africa ce l'abbiamo qui e dobbiamo imparare a ottimizzare le coltivazioni che facciamo. Così Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale, è uno dei pochi esperti agrari d'Italia specializzato in agricoltura tropicale. Il settore agricolo consuma il 70% dell'acqua dolce ed è soprattutto qui che bisogna dunque impegnarsi per limitare gli sprechi, anche nei piccoli orti e giardini privati. Come? Irrigando di sera con acqua tiepida, ma non solo. Limitare quanto più possibile la perdita di umidità del suolo, e questo si può fare con la cosiddetta pacciamatura, cioè la copertura del suolo o delle file dove vengono coltivate le piante con o film plastici o anche paglia. Anche gli orticoltori esperti tendono a dare alle piante più acqua del necessario, ma c'è uno strumento facile da usare e poco costoso, il tensiometro. È un cilindro con una base porosa che viene inserito nel terreno là dove si trovano le radici. Questo cilindro è vuoto all'interno, viene riempito con dell'acqua distillata e su questo viene inserito un manometro, quindi un misuratore della pressione, sarebbe tensione il termine corretto. Questo manometro ha un indicatore che ci dice fondamentalmente con che forza il terreno richiama l'acqua presente in questo cilindro. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ciclo idrico dell'acqua è il tema proposto dall'Università di Udine nella sala della comunità di montagna Gemona del Friuli, un argomento determinante e grave in questo periodo di perdurante siccità, di cui parleranno Daniele Goi, professore di ingegneria sanitaria ambientale dell'Ateneo Friulano, Massimo Battiston, direttore del Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale, e Barbara Fico, responsabile dell'unità operativa Sistema Informativo Territoriale. Inizio alle 18. E torniamo ora a occuparci dell'esame di Stato e dei 9.000 giovani maturandi del Friuli Venezia Giulia che questa mattina, tra poco, dovranno affrontare la seconda prova scritta, che quest'anno sarà un po' più semplice forse rispetto all'epoca pre-Covid, poiché non sarà uguale per tutti a seconda dell'indirizzo, ma studiata ad hoc dalle singole scuole. Ma vediamo com'è andata la giornata di ieri con la prima prova scritta, il tema di italiano. Abbiamo raccolto le prime impressioni di alcuni ragazzi di diverse scuole della città di Trieste. Beh, intanto si esce con un bel sorriso. Sì, dai, sono soddisfatta. Pensavo peggio, invece alla fine si fa. Che traccia hai scelto? Ho scelto la traccia sulla Shoah, sulle leggi razziali. Perché? Beh, è un argomento molto tosto, però è importante parlarne, esserne a conoscenza e, diciamo, trarre sempre conseguenze e migliorare da quello che è successo. Ho fatto il testo sulla musicofilia, sull'amore della musica. Perché? Tu suoni? No, non suono, però diciamo che ascoltare la musica è una delle cose che faccio molto spesso, quindi colto la palla al balzo. Qual è l'esame che fa più paura? La prima prova oppure dopo? Dopo. Secondo me è l'orale, quello è l'esame che fa più paura, sì. Perché? Perché ti vedi lì in mezzo tra tutta la commissione più il presidente che non conosci. Trovi che in qualche modo voi siete una generazione segnata dal Covid oppure no? Sicuramente sì, abbiamo passato metà terza, molta quarta a casa ed è stato difficile, ma adesso abbiamo rifatto gli esami a scuola. Boh, sì, possiamo definirci come la generazione del Covid, però non lo so se questo influisca anche sul nostro futuro o meno. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'andamento dell'epidemia da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.217 nuovi casi di contagio su poco meno di 6.000 tamponi, con un tasso di positività che supera il 20%. Cresce ancora l'incidenza del contagio, che si attesta su poco più di 516 casi ogni 100.000 abitanti a settimana. È stato registrato un decesso nell'area pordenonese. Restano 7 i ricoverati in terapia intensiva, mentre superano quota 100 i pazienti negli altri reparti Covid. Sono 118, 19 in più rispetto all'ultima rilevazione. I problemi strutturali della sanità sono stati discussi in Regione. La terza commissione ha ricevuto il coordinamento di cittadini, che ha promosso una petizione in cui si chiedono più servizi e una maggiore efficienza, soprattutto per le persone fragili e i territori decentrati. Quella per la sanità pubblica è una delle petizioni col maggior numero di firme mai arrivate in Consiglio regionale, oltre 15.000 raccolte tutte in presenza nel giro di un mese. La terza commissione ha ospitato i primi firmatari riuniti sotto la sigla Coordinamento Salute FVG. La petizione chiede il rilancio del servizio pubblico sanitario attraverso un finanziamento adeguato, il ripristino dei servizi soppressi o ridotti, l'avvio di un piano straordinario di riduzione delle liste d'attesa e il coinvolgimento dei sindaci. In audizione, i proponenti della petizione hanno evidenziato, tra le altre cose, tutte le difficoltà di chi vive in montagna, in particolare dei più anziani. La voce di uno di loro, Michele Negro. Noi ci auspichiamo che il Consiglio regionale prenda dei provvedimenti, cioè non basta ascoltare, bisogna adesso fare alcune cose, o quelle che noi abbiamo indicato, il personale in più, i soldi per riaprire i servizi, la partecipazione, o altre, perché occorre, la situazione è drammatica. Diversi gli interventi dei consiglieri, in particolare di quelli d'opposizione, che hanno appoggiato la petizione. Il vicepresidente e assessore alla sanità Riccardo Riccardi riconosce la presenza di alcuni elementi condivisibili nella petizione, come il problema delle liste d'attesa allungate dalla pandemia. Questo paese, fino a quando non risolverà due vicende strutturali, che è un grande investimento sul capitale umano e la revisione del rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, è evidente che non riuscirà mai ad affrontare problemi strutturali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste da oggi e per 3 giorni un gruppo di professionisti triestini e regionali condividerà il proprio pluridecennale patrimonio di esperienze nel campo della salute mentale con i colleghi sudamericani dell'Università di Lanus. Un seminario di formazione nell'ambito del dottorato sulla salute mentale di comunità promosso da Conferenza Basaglia e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La politica, la spaccatura del Movimento 5 Stelle a livello nazionale non ha ripercussioni sul gruppo presente in Consiglio regionale, che non segue lo strappo di Di Maio. Anche il coordinatore Sud, la deputata De Carlo e il ministro triestino Patuanelli confermano la permanenza nel movimento e l'appoggio al governo Draghi. Un addio non certo inaspettato che può dare al Movimento 5 Stelle l'occasione per ridisegnarsi in vista delle politiche dell'anno prossimo. La fuoriuscita del ministro degli esteri Luigi Di Maio, di altri componenti del governo e di una cinquantina di parlamentari non cambia però gli equilibri in Friuli Venezia Giulia. Il ministro alle politiche agricole, il triestino Stefano Patuanelli, ha confermato che l'appoggio del Movimento al governo non è in discussione. Patuanelli rimarrà nelle file dei pentastellati, che però in una riunione questa sera faranno i conti di quanti posti al governo sono stati persi tra i sottosegretari. Senza i fuoriusciti, i 5 Stelle diventano il secondo gruppo parlamentare dopo la Lega, ma senza più rappresentanti nei dicasteri più importanti. Per Luca Sut, coordinatore regionale parlamentare, lo strappo di Di Maio è avvenuto per interesse personale. Le nostre discussioni, dice, non sono mai state contro il governo. L'assemblea deciderà le prossime mosse, ma in regione non cambierà nulla. Lo conferma anche la deputata Sabrina De Carlo. Le scissioni sono dolorose, ora serve un'accelerazione sulla riorganizzazione interna mettendo da parte i tentennamenti. In Consiglio regionale tutti i 4 eletti rimangono nel gruppo dei 5 Stelle, lo conferma anche il consigliere Andrea Ussai. A livello locale, dice, il movimento rimane compatto. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca sarà eseguita oggi all'ospedale di Udine, l'autopsia sul corpo di Elisabetta Molaro, la donna di 40 anni uccisa dal marito Paolo Castellani la scorsa settimana nella loro abitazione di Codroipo. L'esame è stato fissato dalla procura di Udine dopo che il GIP ha nominato curatrice speciale delle due bimbe una della coppia la nonna materna. La designazione consente di poter eventualmente nominare un perito di parte per tutti gli accertamenti che saranno disposti nel corso dell'inchiesta. 8 attività di impresa sospese, 18 violazioni sanzionate per oltre 120.000 euro e la scoperta di un lavoratore in nero. Il bilancio dei controlli dei carabinieri avviati su 14 aziende attive nel settore edile della provincia di Gorizia. Scoperte anche diverse inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la presenza di aperture nel vuoto non protette, di ponteggi e quadri elettrici non in norma. In particolare a Grado i carabinieri hanno denunciato 3 persone al termine di una verifica in un cantiere per la costruzione di uno stabile. Qui, oltre a molte irregolarità, è stato scoperto anche il lavoratore che non era stato messo in regola, trovato nascosto all'interno di una scantinata adibito a deposito materiali. A Gorizia invece riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in un cantiere per la costruzione di un complesso residenziale e in un altro cantiere a Ronchi dei Legionari. Sono state sospese 4 aziende, denunciati 6 datori di lavoro, sempre per gravi inadempienze. I militari del 3° Reggimento Genio Guastatori dell'esercito hanno fatto brillare ieri un residuato bellico nell'alveo del torrente Torre a Medea. I vigili del fuoco hanno predisposto strumentazione, uomini e mezzi per coordinare le operazioni di bonifica che si sono completate regolarmente. Come determinare il rischio sismico e difendersi da un terremoto? È il principio studiato da una sismologa friulana che ha ricevuto un premio internazionale per i suoi studi, un riconoscimento sotto l'egida del Capo dello Stato. Un riconoscimento che serve a superare lo scetticismo della comunità scientifica. Antonella Peresana ha ricevuto a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prestigioso premio internazionale Professor Luigi Tartufari. La sismologa friulana del Centro di Ricerche Sismologiche dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, conduce ricerche a livello internazionale da 20 anni e ha elaborato con i colleghi un approccio diverso alla determinazione della pericolosità sismica. I nostri studi si basano sostanzialmente sull'analisi dell'organizzazione spazio-temporale della sismicità ed integrano questa informazione con la modellazione della propagazione delle onde sismiche, una modellazione fisica che ci permette di definire qual è lo scuotimento del suolo atteso in caso di un forte terremoto. Rimane sempre il pericolo sismico in Friuli? Certo, le zone sismiche, come sappiamo, restano tali per lungo tempo, tempi geologici appunto. Sappiamo che dove ci sono stati dei terremoti forti nel passato possono ripetersi e generalmente questi terremoti avvengono lungo i margini delle placche. Il Friuli si trova appunto all'estremità settentrionale della placca adriatica. Difendersi dal terremoto si può, lo dice Peresan. Facendo innanzitutto prevenzione adeguata con delle stime adeguate dello scuotimento che ci permettano di costruire in maniera opportuna e anche cercando di estrarre delle informazioni, anche se incerte, ma delle indicazioni ulteriori sui pattern di sismicità, sugli schemi con cui si organizza la sismicità. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Enovitis in campo e la manifestazione itinerante organizzata da Unione Italiana Vini è diventata punto di riferimento per il settore dei prodotti, delle tecnologie, dei macchinari e dei servizi dedicati alla cura dei vigneti. Una 16ª edizione che radunerà 171 espositori in un momento in cui il comparto agricolo è in allarme, come abbiamo sentito, per la mancanza d'acqua. Oggi e domani a Cervignano del Friuli. L'ENAIP ha presentato a Gorizia i primi risultati di una convenzione stipulata con l'azienda slovena Goab di Nova Gorizia, leader per la produzione delle tecnologie domotiche. Gli studi hanno potuto confrontarsi con le più avanzate metodologie di efficientamento energetico domestico. La Smart Home, la casa intelligente, può gestire illuminazione, riscaldamento, irrigazione e tutto ciò che è remotabile su uno smartphone. Ma le nuove frontiere dell'abitare richiedono professionalità informatiche ed elettroniche continuamente aggiornate, un obiettivo che l'ENAIP ha scelto di perseguire attraverso una partnership con un soggetto qualitativo della domotica, l'azienda slovena Goab di Nova Gorica, specializzata nella progettazione e realizzazione di dispositivi di automazione domestica e marittima. Il direttore di Goab Nova Gorica, Leon Kral. Oggi è chiaro che la energia non basta per tutti e dopo c'è anche alto prezzo e non c'è altra possibilità come fare innovazioni per risparmiare energia. Tutti questi studenti che finiscono scuola quando fanno lavori per residenziali propongono subito la domotica. I primi studenti hanno già concluso il loro ciclo di studi e con questo progetto anche il mondo della formazione si dimostra pronto ad offrire il proprio contributo nel percorso di Gorizia e Nova Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025. La direttrice di ENAIP Friuli Venezia Giulia, Paola Stuparic. Il fatto di collaborare con le aziende è per noi fondamentale perché rappresenta il modo per entrare veramente nei fabbisogni di innovazione che le aziende promuovono. Tutti i nostri allievi sono già stati prenotati da aziende, sono tecnici preparati. Il 6 luglio organizziamo a Trieste un Open Day in cui verrà presentata tutta l'offerta formativa di ENAIP FVG. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 7.38 minuti apriamo la pagina dello sport, l'ampia pagina dello sport di oggi con il calcio. Triestina, la società è salva, è stata acquisita da una società italiana all'ultimo momento e quindi l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stata fatta. La Triestina è salva e ha un nuovo proprietario, si chiama Atlas Consulting, società guidata da Simone Giacomini e Antonino Maira. Il settore è quello del marketing e della comunicazione, la sede a Roma con uffici a Milano. Versati i soldi necessari all'iscrizione e pagati gli stipendi dei giocatori di marzo, aprile e maggio. In tutto 1.266.000 euro per poter iscrivere la Triestina al campionato di Lega Pro entro la mezzanotte ed avere così l'80% per ora delle quote della società, che sarà amministrata da un CDA composto da Antonio Rappazzo, Antonino Maira e Mauro Milanese. Per Giacomini un onore entrare a far parte della storia rosso-labardata. È stato fatto un vero miracolo burocratico sportivo, sottolinea Giuseppe Daniello, il direttore dell'area gestionale del club alabardato. La corsa contro il tempo è stata favorita dal fuso orario. Nella notte sono arrivati i documenti necessari dall'Australia, dove era giorno, per il passaggio delle quote. Triestina, lo ricordiamo, che si è ritrovata senza proprietario dopo la tragica scomparsa di Mario Biasini il 16 maggio scorso. Qualche settimana fa l'appello di Milanese per salvare il club alabardato da quello che sarebbe stato il terzo fallimento societario della sua storia. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket in un palasport tutto esaurito, la Gesteco Cividale batte Vigevano per 82-63 in gara 5 della finale playoff e conquista la promozione in serie A2. L'anno prossimo il derby tutto friulano con l'Apu Udine. Una marcia trionfale. A solo 2 anni dalla fondazione, da una costola dell'Apu Udine, la Gesteco Cividale la raggiunge in Serie A2. In una gara 5 senza storie, i friulani battono Vigevano 82-63, partita dominata fin dai primi possessi, dove Miani si carica i compagni sulle spalle e fa scappare via i padroni di casa. Ambiente già da Serie A, 2.738 spettatori, tutto esaurito, con mezzo Friuli Orientale presente, rigorosamente vestito giallo-blu. Eagles on Fire è la colonna sonora di un successo meritato dopo una stagione dominata ma anche sofferto, con una serie di finale che aveva visto la Gesteco spalle al muro sotto 2-1 nella serie. Ma la squadra di Pillastrini, coach di lungo corso con esperienza in Serie A1 e promozione a ripetizione nelle categorie superiori, ha davvero troppa energia e troppo talento per Vigevano. Lo si vede da come difende e da come attacca il canestro con pazienza. Alla sirena finale le lacrime del presidente factotum Davide Mikalic, ex general manager artefice della rinascita dell'Apu, dicono tanto. Gli investimenti degli sponsor sono stati cospicui, ma sono stati convogliati su giovani di talento, come Aristide Muaha, esterno classe 2000, arrivato in primavera e fuori categoria tanto fisicamente quanto tecnicamente. Il secondo tempo, con un divario che si aggira sempre sui 20 punti, e una lunghissima e rumorosa attesa della sirena finale che certifica la promozione. L'invasione di campo, la consegna della coppa, il tradizionale taglio della retina sono corollari di una festa di paese. L'anno prossimo in A2 ci saranno 2 squadre friulane con 2 società che non si amano e che daranno vita a derby dai contenuti forti, anche se Mikalic, euforico a fine partita, già si fa sfuggire l'obiettivo: portare Cividale in Serie A1 per il derby contro Trieste. Cividale del Friuli, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ciclismo, assegnati a San Giovanni al Natisone i titoli italiani a cronometro su strada in tutte le categorie, con partenza e arrivo all'interno del velodromo. Nella prova più attesa, quella degli elite maschili, affermazione di Filippo Ganna, che ha onorato la maglia iridata, dimostrando una volta di più di essere praticamente imbattibile a cronometro. Per metà dei 35 chilometri del percorso, Mattia Cattaneo è rimasto vicinissimo al campione del mondo. Solo 5 i secondi che hanno diviso i due corridori. Nella seconda metà della gara, Ganna ha messo il turbo, aumentando il vantaggio su Cattaneo. Alla fine è rimasto indietro di 36 secondi. Il terzo posto è stato di Edoardo Affini, sesto per il friulano Alessandro De Marchi, che ha chiuso a 2 minuti dal vincitore. Fra gli under 23, successo di Davide Piganzoli. Sul podio è salito Brian Olivo del Cycling Team Friuli. Il 19enne pordenonese è rimasto a lungo al comando della classifica provvisoria. Fra le donne elite, titolo italiano per Elisa Longo Borghini, settima la friulana Elena Cecchini. Nelle categorie giovanili, maglia tricolore per la Venturelli e Cattani fra gli juniores per la Sanarini e Travella fra gli allievi. Il popolo dei Maneskin travolge Lignano per quello che sarà probabilmente l'evento dell'estate 2022, una delle band al momento più popolari al mondo. Dopo il trionfo all'Eurovision di soli 12 mesi fa, suonerà questa sera sull'imponente palco allestito allo stadio Tegil per la data zero del loro live al Circo Massimo. Oltre 27.500 i biglietti venduti, tutto esaurito, molti, moltissimi fan dalla Slovenia, Austria, Germania, Croazia, Spagna e Francia, ma anche da fuori Europa. Insomma, il popolo rock si riunisce a Lignano per un appuntamento imperdibile con la rock band più famosa del momento, che dopo il tour mondiale fa la prima tappa italiana proprio in Friuli Venezia Giulia. Sono arrivati direttamente dal festival in Olanda. I cancelli apriranno alle 16:30, il concerto comincia alle 21. Gli organizzatori chiedono di arrivare nel pomeriggio e di non sostare davanti allo stadio dal mattino, perché la temperatura di questi giorni rende pericolosa l'attesa sotto il sole sull'asfalto. Il cinema all'aperto, ma anche un cineconcerto, il grande schermo nelle cantine, nelle ville più suggestive. Quanto offre il programma d'estate di Cinema Zero a Pordenone e dintorni. Più di 30 eventi gratuiti in città, 2 arene, un festival e una rassegna, oltre agli appuntamenti di Cinema Divino. Cinema Zero presenta la sua programmazione estiva con tanti eventi a Pordenone sul territorio, a partire dal cinema all'aperto che si trasferisce in Largo San Giorgio e diventa a ingresso gratuito. Alberto Parigi, assessore alla cultura del comune di Pordenone. Il cinema all'aperto quest'estate sarà in Largo San Giorgio, una piazzetta riqualificata. E poi la gratuità degli eventi, con uno sforzo che ha messo appunto assieme Comune e Cinema Zero. Si parte il 1 luglio con La città incantata nella nuova versione digitale e si prosegue per 2 mesi con 20 appuntamenti. La seconda arena urbana è in via Brusafiera, nei giardini Francesca Trombino, un salotto a cielo aperto con un programma dedicato ai viaggi, in collaborazione con il Pordenone Docs Fest. Qui anche gli appuntamenti del Festival Internazionale di Cortometraggi FMK. Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero. Un altro spazio ameno da riscoprire della città è quello dello spazio Wow nei cortili Francesca Trombino, che ospiterà una proposta strettamente legata al Pordenone Docs Fest e che sarà anche la sede del nostro festival che si svolgerà alla fine di luglio, FMK, festival dedicato al meglio dei cortometraggi. Il 13 luglio il Cineconcerto per la Pace in Ucraina in piazza 20 settembre, con un evento speciale targato anche le giornate del cinema muto. I primi a riaccendersi saranno gli schermi di Cinema Divino, ogni giovedì sera dal 23 giugno al 4 agosto. In 7 tra le più suggestive cantine e ville del Friuli e del Veneto. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La 24esima edizione del Festival Internazionale di Musica e Territori nei suoni dei luoghi si apre il 3 luglio con oltre 30 spettacoli ed eventi tra jazz, folk, fusion, musica classica, Elisa e Jethro Tull in programma fino a dicembre. Ecco qualche anticipazione dalla direttrice artistica Valentina Danelon. Un festival molto ricco, ci saranno 34 appuntamenti non soltanto in Friuli ma anche nella vicina Slovenia e anche in Austria. Sicuramente uno dei fili conduttori è la valorizzazione dei giovani musicisti, talenti emergenti, che quest'anno saranno tanti, saranno 32 e proverranno da 12 paesi diversi e ci accompagneranno con le loro radici culturali diverse attraverso dei programmi molto interessanti. Accanto a loro ovviamente grandi protagonisti della scena musicale classica come il Trio di Parma, Gloria Campaner, nostri ospiti, e altri concerti di altri generi musicali. Quindi con il rock avremo i Jethro Tull che ospiteremo a Udine il 13 luglio e Elisa che sarà a Palma Nova invece il 4 agosto, e poi musica jazz, musica folk, musica connessa con la musica da film, fusion, fusion, eccetera, quindi davvero molta ricchezza. Quando si comincia? Cominciamo il 3 luglio con un concerto a Martignacco con il grande Omar Sosa, jazzista, pianista di fama mondiale. È un concerto particolare alle 6:30 del mattino, fa parte di un circuito appunto chiamato Aurore, proprio perché si connette con questi percorsi anche naturalistici. E terminerà il 3 di dicembre, quindi terremo compagnia per un po'. Alle 7:47 minuti cominciamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. CDA Generali, un'altra fumata nera, braccio di ferro sul nome di Cirinà dopo Caltagirone. La maggioranza presenta un parere legale contro l'ex manager, ma c'è qualche spiraglio. L'alfabeto del futuro, cabinovia, crociere, cibo, Trieste, le sfide del turismo, da Fuxas a MSC, dalla regione alle imprese del territorio. I temi del confronto di oggi al Molo Quarto sulla ripresa del comparto. A centro pagina la fotonotizia, triestina salvata in extremis, ceduta dai Biasin a un gruppo italiano. Il ritorno dei matrimoni a livelli pre-pandemia, volano i viaggi di nozze. Quest'anno cerimonie sui numeri del 2019 con maggio, gennaio e febbraio addirittura più gettonati. Nelle agenzie impennata di richieste per la luna di miele. Poi nuove scalette e docce, 500.000 assegnato dal comune per i lavori a Barcola. E infine allarme zecche, mai così numerose per colpa del caldo e degli animali selvatici. Secondo gli esperti, il morbo di Lyme si presenta anche a distanza di anni e riguarda fino al 20% dei casi. Per le due edizioni del Messaggero Veneto, dunque di Pordenone e Udine, la prima pagina è quasi uguale, stesso il titolo principale, scontro sul superbonus, gli artigiani, lavori fermi, ma i costruttori rispondono che il settore non è bloccato, deve però ripartire la cessione del credito. E poi la maturità senza affanno nella fotonotizia, preferito il tema sui social. Poi la cronaca, vediamo prima l'edizione del Friuli, capolavoro a Cividale, la Gesteco vince gara 5 e vola in serie A2. Focolaio di Covid all'anagrafe di Udine dopo il referendum, questo è il tema approfondito anche nel capocronaca, nelle pagine interne, in cui si parla anche di code per i tamponi in farmacia, in due giorni oltre 2.000 test. Poi guasto in Via del Freddo, manca gas da giorni, residenti esasperati. In taglio alto, sempre in prima pagina, Fondazione Friuli, milioni investiti nel sociale. Il presidente Morandini dice ogni euro erogato ne produce 4, finanziati 229 interventi. E poi una notizia nelle pagine interne, dopo aver infranto il codice della strada aiuteranno i pedoni, 10 persone multate assisteranno la polizia locale. Siglata dunque l'intesa tra comune, tra le 5 città italiane ad aderire a questo progetto e 2 associazioni. Il Gazzettino nell'edizione del Friuli, siccità, via al decreto con i divieti. Da domani li stop all'uso dell'acqua per giardini e piscine, regolato anche l'uso dei bacini montani a scopo irriguo. La fotonotizia, maturità più umana, tracce promosse. E poi pronto soccorso al collasso, 6 infermieri per 80 pazienti, la denuncia del Nursint, reparti in crisi, c'è chi aspetta anche 5 giorni un posto Covid. In prima pagina anche lo sport con la Gesteco in A2. Avete sentito, il prossimo anno sarà derby anche con l'APU Udine. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, al centro la fotonotizia con la sindaca Cisint che ha assegnato le missioni agli assessori della giunta. Garitani sarà vice sindaco. La siccità colpisce l'Isonzo, irrigazioni a rischio blocco, il consorzio di bonifica ha dovuto fermare le pompe e solo in tarda mattinata l'emergenza è rientrata. Situazione eccezionale, salvate centinaia di pesci. Dragaggi quasi fermi nella laguna di Grado, un guasto alla draga rallenta i lavori nel canale di Barbana, tutto fermo a Porto San Vito, serve una conferenza di servizi. Con il nuovo autovelox a Pieris, sanzioni in entrambe le direzioni, la postazione fissa bidirezionale collocata in via Nazario Sauro va a sostituire quella all'altezza del chiosco Talponi che sarà utilizzata sulla Monfalcone Grado. Il Messaggero Veneto di Pordenone, stessa apertura, con la maturità nella fotonotizia, dunque stessa prima pagina dell'edizione del Friuli, ma dal colonnino di cronaca leggiamo la truffa del finto carabiniere, 5 casi in un giorno a San Quirino, Caneva e Polcenigo, presi 6.000 euro e monili. Poi messaggi indebiti a Zazzano Decimo, scontro sul ballottaggio e nelle pagine interne il capocronaca di Pordenone dedicato all'emergenza siccità, la città chiude l'acqua nelle fontane a ciclo continua, il tema della città sempre più isolata, il treno Venezia diventa lontana, 2 ore nei festivi. In basso, sempre in prima pagina, invece la notizia su Pordenone Legge, un evento a Praga prima del via, poi il secondo anno consecutivo da Pordenone, Lignano e Trieste. Uno sguardo al Gazzettino nell'edizione di Pordenone, che apre sul tema ancora della siccità, stessa apertura dunque dell'edizione del Friuli che dedica la fotonotizia di nuovo alla maturità. Le merci in centro con mezzi elettrici, nasce un deposito, i camion si fermano fuori dalla città, consegne ecologiche a negozi e privati. Poi in taglio basso il caro prezzi, zinco e legno più cari, stangata anche sui funerali. A causa di un'improvvisa indisposizione, Enrico Rava, icona del jazz italiano, ha dovuto dare forfè per il concerto previsto oggi a Marano Lagunare all'interno della manifestazione Borghi Swing 2022. Coloro che hanno acquistato il biglietto online o presso le pervenienti autorizzate, Viva Ticket, possono chiedere il rimborso. Al via il calendario estivo degli eventi di Udine, tra grandi ospiti, musica e cultura, oggi apre l'arena cinematografica all'aperto del giardino Loris Fortuna. Tra alberi e rose, fino al 31 agosto saranno proiettati film diversi ogni sera. Alle 21:30 c'è la prima visione di Elvis di Baz Luhrmann e Tom con Tom Hanks. A Pinzano al Tagliamento, doppio concerto per folchestra a partire dalle 20:45 al centro scolastico di Pinzano. Capitano tutti a noi, un progetto nato dalla collaborazione di Cooperativa Itaca e Folchest, e a seguire il folk friulano dei Braul. Torna sui palcoscenici dell'Alto Livenza la rassegna Scenario d'estate, che il piccolo teatro Città di Sacile rilancia da oggi con un nuovo menù di teatro à la carte, che offrirà al pubblico 6 appuntamenti tra Sacile, Budoia e Polcinigo fino a settembre. Il cartellone comincia proprio con A tavola con Canova e il neoclassicismo. Alla Chiesa di San Giorgio a Sacile, inizio alle 20:45, il tema proposto riguarderà storie del Settecento tra arte e cronaca, anche in cucina. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'anticipazione del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vuoi o Fevelindi, che parlerà di carni a tesori nascosti. Alle 11:19 circa Anziani Anzi No, che parlerà del nuovo sportello welfare a Gorizia. Alle 11:55 andrà in onda Né Stato Né Mercato, dedicato alla 25esima edizione della Festa d'Estate a Udine e di alcune proposte di volontariato. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Eva Ciucca e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e Riccardo Stoici. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Prossimo appuntamento con il GR alle 12:30. A tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.